Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Se io prendo un docente che non funziona bene, ne subisco le conseguenze, non mi arrivano più studenti che mi pagano la retta, eccetera. Allora, se noi eliminiamo certe regole che governano oggi il funzionamento dell'università, che sono costruite per quelle poche minoranza di università che combinano questi pasticci e fanno queste pratiche sbagliate, il intero sistema non funziona bene. Bisogna cercare di differenziarne. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Le riflessioni dell'ex rettore della Bocconi Andrea Sironi su come cambiare la nostra cultura meritocratica in università aprono la puntata. Il segreto è di matrice anglosassone, come suggerisce Sironi. Chi sbaglia scegliendo i peggiori paga anche in reputazione. Parole che giungono in un autunno segnato dalle polemiche sulla correlazione tra fuga di cervelli e nepotismo accademico. Per Sironi la fuga mina le nostre capacità di progresso futuro. La combinazione di investimenti in ricerca sottodimensionati e di elevata produttività scientifica dei ricercatori italiani si riflette e sottolinea nel fenomeno della fuga dei cervelli. Incrociando i flussi bilaterali tra Italia e Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, si evidenzia tra il 96 e il 2013 un saldo netto negativo di oltre 5.000 scienziati. L'intervista a Sironi era di Maria Piera Ceci. Noi voltiamo pagina. Come diventare manager internazionali? Come avviare una carriera a cavallo tra Europa e Sud America? Questo è il tema su cui fa perno la nostra puntata, con la storia di una giovane manager italiana approdata da poco in Brasile passando per l'Olanda. Quindi occhio alle dritte che vi daremo questo sabato. La puntata si chiuderà al caldo, vi racconteremo come andare a vivere e lavorare alle Canarie. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Franca Ciampi, moglie del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. La delusione maggiore per me e mio marito negli ultimi anni ha riguardato il futuro dei nostri giovani, costretti ad andare all'estero se vogliono costruirsi qualcosa. Volevamo qualcosa di diverso, siamo bisnonni, dice la signora Franca, e speravamo che finalmente si realizzassero prospettive meno complicate per chi verrà dopo di noi, per i nostri bisnipoti. I NEET parlano soprattutto italiano. Nel nostro paese oltre un terzo dei giovani tra i 20 e i 24 anni non lavora né studia. In 10 anni la loro percentuale è aumentata in misura superiore rispetto agli altri paesi OCSE, più 10 punti. Il poco lusinghiero record emerge dal rapporto Education at a Glance 2016, che non addita come unica colpevole la crisi economica. Altri paesi come Grecia e Spagna, che hanno sperimentato un calo simile di occupati, non hanno infatti registrato un incremento così vistoso degli inattivi. Quel che è peggio, la quota dei nostri giovani laureati 25-34 anni che riescono a trovare lavoro risulta di oltre 20 punti inferiore alla media, 62% contro 83%. E chi non vede opportunità qui, beh, salpa verso altre lidi. Penso che la meritocrazia in ambito olandese sia stimolata anche dall'ambiente di lavoro poco gerarchico, dove il feedback è molto importante. Maria Giulia Benato, 29 anni, una manager in Brasile per conto di una multinazionale con base in Olanda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. I millennials italiani sono tra coloro che registrano le percentuali più basse riguardo al benessere lavorativo. Secondo l'ultimo barometro Edenred Ipsos, solo il 25% delle under 30 si sente rispettato dai propri manager, 10 punti sotto la media internazionale. Solo il 21% crede che i propri superiori abbiano a cuore la formazione dei giovani in azienda, meno del 20% è convinto di lavorare in un ambiente stimolante. Infine, soltanto il 21% dei millennials in Italia si mostra fiducioso sulla capacità di trattenere i talenti da parte delle nostre imprese, contro una media internazionale del 32%. La Normale di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna occupano i primi posti italiani nel World University Ranking, classifica internazionale delle migliori università stilata dalla rivista Times Higher Education. Stati Uniti e Gran Bretagna giocano anche quest'anno la parte del leone. E a proposito di Regno Unito, gli studenti dell'Unione Europea che faranno domanda per frequentare le università britanniche nel prossimo anno accademico avranno accesso a prestiti universitari e borse di studio per tutta la durata del corso. La rassicurazione dopo la Brexit arriva dal governo di Londra. Buone notizie, parla al femminile la ricerca sull'Alzheimer, consentendo a due ricercatrici italiane di rientrare. Sono Ilde Pieroni, 27 anni, da Ginevra a Pescara, e Martina Bracco, 26 anni, da Glasgow a Palermo. Sono tra i 25 giovani studiosi premiati al Ministero dell'Istruzione con assegni di ricerca per progetti sull'Alzheimer da 600.000 euro l'anno per 3 anni. A proposito di attrattività per studenti e ricercatori internazionali, il Comune di Milano rilancia il programma Study in Milan, che eroga facilitazioni a chi approda nelle università meneghine. Oltre 18.000 gli studenti stranieri a Milano, un quarto del totale italiano. Oggi vi segnaliamo anche il Job Tour Italia-Germania, una serie di eventi organizzati da Eures e dai servizi per il lavoro tedeschi. In palio decine di possibili impieghi in terra tedesca per tutti i profili. Info su formalavoro.provincia.savona.it. Le giornate saranno tra il 24 e il 27 ottobre, partendo da Ventimiglia e arrivando a Cuneo. E in chiusura vi vogliamo parlare della prima edizione del premio in memoria di Luana Ricca, la giovane dottoressa mancata alla fine dello scorso anno. Di lei, una dei nostri giovani talenti di cui vi abbiamo raccontato la storia all'epoca del suo soggiorno lavorativo in Francia, vi abbiamo ampiamente parlato. Il premio in suo nome sarà assegnato a un giovane chirurgo. Ce ne parla il fratello di Luana, Francesco Ricca. L'iniziativa è nata per ricordare mia sorella Luana, che era un giovane chirurgo che metteva passione e dedizione nel proprio mestiere, in quello che era la chirurgia epatobilio-pancreatica, quello che era il suo ambito. La SICO, la Società Italiana di Chirurgia Oncologica, grazie ai suoi rappresentanti anche di ANSICO, ha fatto sì che questo premio potesse trovare la luce e verrà premiato appunto il miglior chirurgo giovane under 40, che proporrà la miglior presentazione video sul tema della chirurgia epatobilio-pancreatica. È un'iniziativa che va a favore del merito di coloro i quali hanno le capacità, e Luana si batteva molto affinché questo potesse emergere anche nel campo della chirurgia. Per quel che riguarda invece le notizie dal Ministero della Salute, ad oggi, dopo 7 mesi dalla presentazione del documento di proposte in ambito di avanzamento di carriera in medicina, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, e questo un po' mi ha lasciato così perplesso. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fino in Brasile, passando però prima necessariamente dall'Olanda. Nome: Maria Giulia. Cognome: Benato. Età: 29. Città di origine: Bergamo. Studi: International Management. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2012. Per andare dove? In Olanda. Perché? Continuare l'esperienza internazionale. Quale lavoro svolge attualmente? Asset Manager America Latina. Dove? Brasile. Tornerai? Per ora no. La cosa più importante per me è sentirmi ricompensata per il mio impegno professionale sotto forma di concrete possibilità di crescita. L'autonomia, la possibilità di imparare e fare la differenza sono strumenti molto più potenti di 100 euro in più. In busta paga, ci scrivi Maria Giulia nella lettera che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it, e lanci uno schiaffo morale all'Italia. È una certa mentalità tutta italiana che pensa che l'unico problema per i giovani sia il salario, peraltro già basso. Cosa non va, Maria Giulia? Vedo un'Italia che fatica ad accettare il cambiamento. Si considera la formazione dei giovani come un costo e non un investimento. Il giovane di talento è spesso un pericolo per chi occupa le sfere più alte, e quindi si tenta a dargli dei contentini al posto di vere opportunità. Le organizzazioni italiane si devono rendere conto che oggigiorno la gestione aziendale può essere davvero molto più ampia, avere confini molto più ampi di quelli che sono stati utilizzati finora, e non ci si può nascondere più dietro a vecchie scuse in un mercato così dinamico. Ecco, è bella questa tua considerazione, perché smaschera molte ipocrisie. Analizziamo la tua carriera professionale, che potrebbe essere di grande ispirazione per i nostri giovani all'ascolto. Animata dalla passione per il viaggio e per le lingue, ti iscrivi a una laurea in cooperazione internazionale con focus sui mercati asiatici. Perché? Ricordo di aver pensato che la possibilità di esplorare una cultura, una lingua diversa, così diversa dalla nostra, mi affascinava moltissimo, e avendo la possibilità di scegliere, ho scelto quella cinese. È stata una scelta senz'altro importante, che mi ha permesso di viaggiare in Asia per studi e lavoro, e che poi ha aperto la strada per continuare nella sfera internazionale. Esatto, perché la svolta arriva con la laurea specialistica. Ti sposti a Bologna per la laurea in International Management. Evidente cambio di prospettiva, molto più orientato all'azienda. Cosa ti ha fatto propendere per questa direzione? La triennale era stata improntata su studi più multidisciplinari, e devo dire che anche la parte umanistica mi ha aperto molto la mente, e tuttora mi fa vedere la vita professionale in maniera più caleidoscopica, per così dire. Feci una tesi sulle trattative commerciali con la Cina, un tirocinio nella sezione Asian Affairs di una multinazionale italiana, e da lì mi incuriosì la possibilità di esplorare meglio il lato economico degli studi internazionali. Infatti, l'hai citata, queste esperienze internazionali che in qualche modo hanno cambiato anche la tua prospettiva. Quanto hanno fatto la differenza? Moltissimo. benissimo, appunto ero già stata in Cina per studiare mandarino, durante la specialistica ho fatto domanda per la borsa di studio Overseas e per la borsa di studio Erasmus Mundus in Cina, vinsi entrambe le borse e alla fine ho deciso di andare in Australia e l'esperienza a Melbourne è stata estremamente importante. Giovani talenti, si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Maria Giulia Benato, 29enne manager in Brasile, o meglio, prestata al Brasile dalla sua multinazionale olandese. Maria Giulia affronta fin da subito un percorso di studi fortemente improntato all'internazionalizzazione, ma si scontra presto con una realtà lavorativa in Italia carente, sia dal punto di vista delle offerte che della qualità di queste stesse offerte. Illuminante ascoltare dalla sua viva voce l'ambiente che trova in Olanda. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Domanda dirimente: consiglieresti a un tuo collega, a un giovane, di studiare in Italia o meglio andare fin dall'università all'estero? Il voto che do all'educazione italiana e alla mia laurea specialistica, specialmente di Bologna, è molto buono. Le università italiane sono riconosciute internazionalmente per avere un buon livello che prepara gli studenti per il mondo del lavoro, ad avere una conoscenza molto approfondita. Non abbiamo nulla da invidiare agli studenti delle università straniere, ma fare un'esperienza all'estero, all'interno del ciclo universitario, è molto importante perché aiuta a confrontarsi con il livello che esistono fuori dall'Italia. È chiarissimo. Dopo la laurea, come tutti, inizia a inviare molti curricula in Italia e all'estero. I primi passi però, appunto, non sono soddisfacenti. Nella penisola, che tipo di offerte ricevevi? Ho ricevuto parecchie offerte di stage non retribuiti o poco retribuiti e opportunità poco attraenti, un po' anche dal punto di vista di stimoli lavorativi e possibilità di fare progetti all'estero che io cercavo. Tra l'altro, i primi passi nel mondo della consulenza a un certo punto non ti hanno proprio soddisfatto. Perché non sei stata gratificata da questa esperienza in Italia? La retribuzione, diciamo, era bassissima per le ore che facevo e devo dire che mi sono sentita un po' sfortunata dal punto di vista dei colleghi, in cui c'era un certo tono di arroganza e una poca voglia di insegnare. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Poi arrivò finalmente la notizia. La lunga serie di colloqui per una multinazionale olandese nell'ambito dei servizi finanziari era andata a buon fine, ricordi. Ci racconti allora com'è stata questa selezione? Il primo colloquio lo feci a Bruxelles, faccia a faccia, perché avevo mandato il mio curriculum a un evento di recruiting a cui partecipavano diverse multinazionali. Poi un colloquio via Skype, un test logico-verbale. E poi sono stata invitata al quartier generale in Olanda per l'ultimo step, in cui ho fatto 3 colloqui e un business case, quindi in tutto 7 step. È facile trasferirsi e ambientarsi nei Paesi Bassi, in una parola? Sì, io mi sono trovata molto bene. E poi c'è la sfera lavorativa. Ci descrivi perché quello olandese è un ambiente meritocratico? Penso che la meritocrazia in ambito olandese sia stimolata anche dall'ambiente di lavoro poco gerarchico, dove il feedback è molto importante. Per me i cardini della meritocrazia sono un'azienda che ti permette di sfruttare le tue capacità e l'impegno professionale e soprattutto persone che sono disposte ad appoggiarti, consigliarti e a farti da cosiddetto sponsor. E ci tengo a sottolineare che questo processo di sponsoring è molto differente da quello che noi in Italia chiamiamo raccomandazione. Ah, ecco, hai toccato il tasto dolente e non andiamo oltre perché questa è una grande nostra colpa. Inizi con un programma di tirocinio in International Management, viaggiando tra Olanda, Brasile e Gran Bretagna, dopodiché vieni spostata su un programma di Global Product Management, gestendo progetti internazionali. A fine 2015, l'opportunità dove ti porta e per svolgere quale mansione? Sono appunto in Brasile, sono a capo della sezione di Asset Management della America Latina e in questa funzione gestisco un team e un portafoglio su 4 paesi e faccio parte del management team locale. Brasile come meta di espatrio? Senz'altro un paese differente, con anche le sue problematiche dal punto di vista sociale e politico. Detto questo, c'è da dire che il Brasile è una macchina economica gigantesca che può offrire opportunità in molti settori: finanze, ingegneria, arti, settore umanistico, perché è un paese molto vivace culturalmente, e anche il molto interessante ma anche molto dibattuto ambito sociale, ambientale delle energie rinnovabili. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Vedo un'Italia che fatica in un conformismo abbastanza acuto ancora. Vorrei che ripensassimo l'organizzazione, la cultura aziendale e il modo in cui la performance e la ricompensa sono valutate all'interno dell'azienda. Ci raggiunge ora in linea Simone Feriani, professore di economia e gestione delle imprese all'Università di Bologna. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, lei nell'email che ha inviato a Giovani Talenti cita Jack Welch, storico CEO di General Electric. Da questa frase di Welch partiamo: dobbiamo mandare i nostri migliori talenti all'estero, fare in modo che ricevano l'addestramento che permetta loro di essere leader globali, che facciano prosperare l'azienda in futuro. Allora, che ne dice se sostituissimo il nome Italia a quello di GE? Credo che sarebbe una buona idea, e io quando insegno i miei corsi di strategia globale international management propongo sempre questa frase di Jack Welch, perché secondo me l'orientamento di tutti gli studenti più ambiziosi dovrebbe essere da subito quello di una prospettiva di carriera globale, internazionale, per una serie di ragioni. Allora, nelle ultime settimane i dati sulle espatrie dei nostri giovani all'estero hanno fatto, come sempre, discutere. Lei però non vede solo una fuga di cervelli, perché? Non vedo di cervelli perché mi piace pensare che l'espatrio sia una ricerca di opportunità globali. E quindi una mobilità alla ricerca di opportunità che sempre di più sono distribuite a livello internazionale. E non lo vedo come una minaccia, anche perché nel lungo periodo mi piace pensare che le competenze che si sviluppano in un contesto globale siano competenze di alto livello che un domani possono rientrare e, diciamo così, fertilizzare la scena industriale e imprenditoriale del nostro paese. In breve tocchiamo anche il tema startup, perché lei è coinvolto come direttore scientifico di Unibo Launchpad nell'accelerazione imprenditoriale per giovani ricercatori. In una battuta, abbiamo sì o no un ecosistema in grado di sostenere l'imprenditoria innovativa in Italia? Gli ecosistemi ci sono diffusi sul territorio, ci sono delle regioni in cui questi ecosistemi sono presenti e sono più forti, altri dove questi ecosistemi non ci sono o se ci sono sono solo nascenti. Lo sforzo che va fatto per costruire degli ecosistemi è uno sforzo che a mio avviso non può prescindere anche dall'internazionalizzazione. Grazie al professor Simone Feriani, in bocca al lupo ovviamente per le sue attività. E domanda a diritto per Maria Giulia Benato: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il consiglio è: fate un respiro profondo e buttatevi. Può sembrare un salto nel buio che spaventa, ma non lo sarà se vi preparerete bene. Valutate bene la destinazione, cercate già dall'Italia e nella migliore ipotesi partite già da un contratto, perché l'adattamento alla vita straniera si rivelerà estremamente più semplice. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un analista del settore bancario alla European Banking Authority a Londra, scadenza per i CV 26 ottobre, info su eba.europa.eu. Un ingegnere manager di progetto per Bombardier a Crespan in Francia, scadenza per il CV 4 novembre, info su jobs.bombardier.com. E infine un postdoc in fluido dinamica computazionale all'Austrian Center of Industrial Biotechnology a Vienna, scadenza per il CV 31 ottobre, info su acib.at. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi portiamo nei mari del sud, perché puntare verso il settentrione d'Europa può non rappresentare l'unica soluzione disponibile, soprattutto per noi mediterranei. Qualche chance, magari meno qualificata, la può offrire anche un noto arcipelago spagnolo in pieno oceano Atlantico, come ci spiega Luca Stefani, autore di Canarie, come lasciare l'Italia e vivere felici. L'idea del libro nasce quando ho raggiunto le Isole Canarie, perché ho voluto raccogliere praticamente all'interno del libro tutte le mie paure, le insicurezze e i dubbi che avevo prima di partire e che poi, quando sono arrivato alle Canarie, si sono un attimino affievoliti e sono sbocciati in qualcosa di bello. È facile trasferirsi a vivere alle Canarie e soprattutto per fare cosa? Non è facile trasferirsi a vivere alle Canarie, bisogna fare dei passi corretti. Io mi sono mosso all'inizio facendo un viaggio perlustrativo, cioè sono andato a vedere il posto dove sarei andato per capire bene di cosa si tratta, per sapere come muovermi dopo. Poi la scelta è ponderata nell'arco di sei otto mesi. Non si può partire con l'idea di avere mi sveglio la mattina, ho 2000 euro in banca, prendo e mi trasferisco alle Canarie. Immagino il tuo libro sia anche un po' una guida pratica in questo senso. Cosa consigli nel libro? La prima cosa in assoluto è, per chi non sa le lingue, fare un corso di spagnolo. Consiglio di farlo in loco, perché comunque da casa sì, però poi è come l'inglese: se non lo si mastica, se non lo si parla, non lo si impara. Sappiamo che alle Canarie il costo della vita è un 30% inferiore rispetto a quello che c'è in Italia, quindi gli affitti con 600 euro al mese, se è un appartamento in un villaggio con la piscina, con acqua e luce inclusi, cioè ci sono dei costi totalmente diversi. Quali sono i lavori più frequenti, più abbordabili per italiani che vanno a vivere alle Canarie? Allora, i lavori più abbordabili sono sicuramente quelli che hanno a che fare con il turismo, quindi ristorazione in primis, i noleggi auto, tutte le cose che hanno le agenzie di viaggio, le agenzie immobiliari, tutto quello che ha a che fare con il turista. Come descriveresti la comunità giovane, anche italiana, che vive alle Isole Canarie? Beh, sono sicuramente persone come me che erano stanche di, o che magari non riuscivano a trovare lavoro, avevano qualche soldino da parte e hanno detto proviamo ad andare a vedere se troviamo qualcosa. E sono sicuramente delle persone giovani che hanno voglia di fare. Le Canarie sono un arcipelago, qual è l'isola su cui puntare? Per cercare lavoro sicuramente sulle due principali, che sono Gran Canaria e Tenerife, anche se a me Tenerife personalmente non piace più di tanto. Per maggiori informazioni, Canarie, come lasciare l'Italia e vivere felici, di Luca Stefani, in vendita online. Un motivo per restare o tornare. Restano anche per il 2017 gli sgravi nella manovra per incentivare il lavoro stabile. Si tratta di sconti selettivi destinati a giovani e adulti rimasti senza occupazione ma non ancora in età pensionabile e mezzogiorno. Per il pacchetto sgravi ci saranno il prossimo anno 700 milioni. Due le misure nazionali, una legata alle assunzioni del percorso Garanzia Giovani e l'altra per chi assume giovani già in azienda in stage grazie ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Per il mezzogiorno ci sarà invece decontribuzione piena per l'assunzione di under 24 e per i giovani tra i 24 e i 29 anni senza lavoro da almeno un semestre. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. giovanitalenti@radio24.it, aspettiamo voi. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.